Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar. Allora, 20 minuti. Sai che ho messo quasi Mauro Corona, il mio amico Mauro Corona, in carcere invece di Fabrizio, che non spero non vada in carcere anche lui. Ma prima, no, ho detto, ma dai. Ho prima detto che rischia Mauro Corona. Ma sta sulle montagne, grande abbraccio. Nella natura, altro che carcere. Vabbè. Vabbè. È Fabrizio Corona, ovviamente. A proposito di carceri, poi vabbè. Sì, sì. No. Ne parliamo di Totorina, ma gente, no, ma... impazzita. No, viva il pezzo di Repubblica oggi che spiega che sta da 20 mesi, non 20 giorni, cioè non ce ne sono, sta da 20 mesi in ospedale al policlinico di Parma. Nessuno ha notato nessun problema, non rientra in carcere, quindi non è in carcere, di fatto non è in carcere, come mi sembra sia anche più o meno comprensibile. E quindi tutta sta fuffa di sdegni. No, non lo so, ma infatti c'è, cioè, l'Italia è pronta a indignarsi su... In realtà Totorina da mesi è curato in ospedale. Mesi, 20, non... È curato in ospedale e quindi è dignitosamente curato e basta, insomma. Credo che sia una polemica che si smonterà come un soufflé. Però sì, però vedere fior di magistrati, fior di politici, fior di... Cioè, nessuno si pone il problema, ma prima di parlare, verificare il fatto di quello, perché poi io rispetto, per carità, no, l'opinione di tutti, sì, ma il fatto. Sì, sì, sì, è innestato il dibattito su ha diritto o no a una morte dignitosa. Questo anche ci insegna che il nostro mestiere, anche se molti lo vorrebbero abolire, è più che mai, resta più che mai importante, secondo me. Però detto questo, non serve per farci da soli i complimenti, serve semplicemente per dire, come vedete, ecco qua l'ennesimo esempio di opinioni a tambur battente su un fatto che però non è accertato. Il fatto è completamente diverso. Allora, oggi 7 giugno, in questo 7 giugno scelgo tra i diversi santi San Roberto di Newminster e San Godescalco, non perché io conosca i Godescalchi, però è un re che è finito male all'inizio del 1066, perché era cristiano, e quindi ogni tanto vanno ricordati questi santi medievali di cui nessuno poi usa più il nome. Oggi nel 1984 Berlinguer veniva a Piazza delle Erbe colpito da un ictus mentre pronunciava un comizio ed entrava quindi così direttamente nella leggenda. È il compleanno di Pippo Baudo, mi aspettavo quasi, Alessandro, di vedere che girasse come nome del direttore generale della RAI rinnovata, però siamo lì vicino e non è che manchi tanto, però insomma auguri a Pippo Baudo. A Enrico Montesano, era il compleanno di Gheddafi, insomma, diciamo, un giorno di vecchie e nuove. Era di Gheddafi. Perché però tanto per ricordare che anche lì sono passati anni, Baudo, però. Ma non è che in Libia siamo venuti a capo di nulla, e in più viviamo in un paese in cui le madri implorano la polizia, fermate mio figlio, ma invece niente. Ma infatti io sono rimasto un po' colpito da tutti i titoli: abbiamo segnalato alla Gran Bretagna, questo sì, poteva essere anche il titolo, lo abbiamo lasciato andare in Gran Bretagna, sono due punti di vista ben diversi che dicono la stessa cosa del fatto, della notizia, anche qui, ma magari con un'accezione non diversa. Per alimentare polemiche, ma insomma abbiamo segnalato, ma non è che siamo riusciti a identificare davvero un rischio, malgrado segni così eclatanti, cioè ripeto, la segnalazione della madre. A questo proposito io volevo segnalarti che adesso io non voglio fare l'agitprop quotidiano torinese della stampa di Torino, però anche oggi una degli articoli che mi ha più colpito su questo argomento è pagina 3 della stampa: da Milano al porto di Bari, l'Italia corridoio dei jihadisti. usano il nostro paese come transito sicuro, che ai miei occhi, io lo ripeto da sempre, è una delle possibili chiavi per capire perché finora ci siamo salvati da grandi attentati. Cioè siamo un porto che facciamo, franco corridoio garantito. A proposito di inciuci, no, io non dico inciuci, sarà o per come si vede nel caso del terrorista britannico italo-marocchino, o perché non siamo bravi e capaci, cioè, o perché c'è qualcosa di più nei nostri contatti non detti internazionali dei servizi. Resta il fatto che io ho apprezzato molto questo articolo: da Milano al porto di Bari, l'Italia corridoio dei jihadisti. E i fatti poi sono questi. Certo, uno mi potrebbe obiettare, non sai se è vero, ma quando anche fosse vero e l'effetto è niente morti e niente attentati, sai com'è, nel mondo internazionale si va avanti con la logica di Machiavelli. La mia risposta però sarebbe sì, ma però no, effettivamente c'è anche l'avvocato che ha difeso, perché è stato fermato all'aeroporto di Bologna e c'è questo giallo, pare abbia detto, ma lei cosa va a fare a Istanbul? Il terrorista, al che ovviamente l'agente di polizia di frontiera ha detto, come scusi, il terrorista? No, il turista intendevo. E quindi c'è un processo, cioè è stato, come dire, segnalato. E l'avvocato che l'ha difeso, Silvia Moisè, intervistata dalla Verità, dice quel processo è ancora, certo adesso non più, è ancora in vigore, cioè è ancora sotto processo. Sì, è ancora aperto. È ancora aperto, però... purtroppo l'avvocato normalmente dice il giovane non parlava con me perché io sono donna, quindi sì. Siamo tutti in paradosso insieme in questi mondi. Vediamo tra l'altro qui in Gran Bretagna come andranno le cose, perché io sono convinto che la May prenderà una botta, si pentirà molto di aver convocato queste elezioni credendo di fare una vittoria, un landslide come si dice in inglese, una travolgente affermazione storica superiore a quella della Thatcher. Credo che non gli andrà molto bene, né per la Brexit, ma neanche per la vicenda dell'attentato di Londra. Vedremo, vedremo. Tra l'altro questo è un paese in cui noi ne abbiamo anche parlato a volte, secondo me facendo anche due battute, si dice ma come, è un paese in cui non si riesce a prendere questo Igor il russo o Igor il serbo, questo, Norbert, no, Norbert Fehr, che ha compiuto due omicidi, questa è l'accusa, sempre che sia stato lui, perché ovviamente lui è indicato come colui che a Budrio e nei dintorni è in fuga da ormai 2 o 3 mesi, nonostante lo stia cercando tutte le forze dell'ordine. In realtà c'è poco da ironizzare, proprio perché ci sono delle vittime. Con noi c'è l'avvocato della famiglia di Davide Fabbri, il ristoratore, barista, tabaccaio che è stato ucciso appunto a Budrio. Si chiama Giorgio Bacchelli. Avvocato Bacchelli, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno. Perché cosa succede, Oscar, che si sta anche pensando a una sorta di protesta popolare? Non so quanto estesa, ma dato di fatto che a Budrio si vota come in tanti paesi domenica. E alle amministrative, è vero, avvocato Bacchelli, che alcuni degli amici, alcuni familiari, anche di Davide Fabbri, vogliono polemicamente eleggere sindaco, ovviamente in maniera così virtuale, la vittima Davide Fabbri, scrivendo questo nome e cognome sulla lista, sull'urna e mettendo nell'urla? Beh, a questa domanda rispondo in termini affermativi. Ho parlato proprio ieri con quello che si sta occupando principalmente della promozione della costituzione di un comitato che deve essere un comitato formato dagli amici di Davide Fabbri. È diciamo una sorta di provocazione che si accompagna a un'iniziativa per mantenere desta l'attenzione di tutti, principalmente le forze dell'ordine, ministri, eccetera, sul discorso relativo alla ricerca. Attenzione che in teoria c'è, perché le forze dell'ordine ci sono, cioè abbiamo visto le immagini di carabinieri, polizia, che andavano a controllare anche gli anfratti più questo nei primi giorni. Ci sono ancora le forze dell'ordine all'opera, certo, che cercano. Non più tardi di ieri, mi sembra ieri l'altro, il comandante dei carabinieri ha fatto delle dichiarazioni ufficiali dicendo che proseguono attivamente le ricerche. Ci sono molti segnali, secondo quello che si dice, della presenza ancora di questo personaggio Igor Norbert Fehr, e il serbo, il russo, sì, serbo, russo, serbo. Quindi le forze dell'ordine non demordono, nel senso che continuano queste ricerche. Però non lo sono trovano. Attive, però non è stato trovato. Sono passati esattamente dal 1° aprile, 2 mesi e qualche giorno. È un periodo abbastanza di tempo abbastanza prolungato per effettuare delle ricerche e per trovare il personaggio. Qualcuno ne dubita che sia ancora presente, però appunto. A vari segnali, varie indicazioni. E vorrei parlerò anche con il procuratore della Repubblica che si occupa del caso per sentire quali possono essere gli ultimi segnali relativi a indicazioni di presenze di Igor della zona. Pare che avrà dei controlli. O dei complici o sarà riuscito a fuggire. Ha avuto sicuramente dei complici, anche perché è stato in carcere a Ferrara per parecchi anni per precedenti reati, quindi ha conosciuto dei personaggi in carcere l'hanno sicuramente poi aiutato successivamente. Comunque la cosa anche politica, se vogliamo, e la polemica, Oscar, è il fatto che appunto ci sono delle persone pronte a mettere il nome di Davide Fabbri sulla scheda elettorale. Questo è lo spunto più polemico che è venuto fuori da questa iniziativa di questo comitato degli amici del povero Davide Fabbri. Cioè, a un certo punto, oltre ad altre promozioni, striscioni, interviste per richiamare l'attenzione, c'è ancora l'attenzione, però non è mai sufficiente, mai bastevole, e quindi hanno anche detto, dato che ci sono le elezioni amministrative in vista, noi pensiamo di fare anche una provocazione ulteriore, indicando nella scheda, in vista del nome del candidato formale, ufficiale, candidato Davide Fabbri. Ovviamente saranno schede nulle, almeno questo è quello che hanno indicato alcuni personaggi che dovrebbero far parte di questa di questo comitato che per ora è informale ma sarà anche formale, e cioè la Costituzione avverrà formalmente prossimamente, insomma, questa è la situazione. Comunque questa vicenda che qua sottolinea che siccome noi siamo spesso pronti, dico noi nel senso dalla politica all'informazione, pronti a dire vedete in Francia, vedete in Belgio, vedete in Gran Bretagna gli insuccessi dell'intelligence, delle forze dell'ordine, eccetera eccetera, dopodiché questa vicenda è aperta da più di 2 mesi ed è sfida anche alla ragionevolezza, ma vista l'entità e il dispositivo professionale delle forze dell'ordine impegnato, cioè stiamo parlando dell'elite dei reparti speciali delle forze dell'ordine italiane, due, quando parliamo dei grandi ricercati, quelli in cima alla lista dei criminali più pericolosi, stiamo parlando in Italia di criminali che non si riescono a trovare per 20-30 anni eccetera eccetera, e poi, come puntualmente è avvenuto a San Luca 4 giorni fa, sono a casa loro, ecco, per dirti, Alessandro. Quindi ecco, io direi che prima di scatenarci sulle facili beffe sui dispositivi di sicurezza, riponiamoci il problema di casa nostra, perché la vicenda di Budrio, ma ripeto anche la vicenda della lista storica dei ricercati italiani, ci dice che no, non possiamo ripararci all'idea che in Italia siamo i campioni da questo punto di vista. No, tra l'altro vogliamo ricordare che oltre a Davide Fabbri è accusato dell'omicidio di Valerio Verri pochi giorni dopo, una guardia ambientale che, sentendosi braccato, questo almeno nella ricostruzione, perché sa, poi avvocato nessuno l'ha trovato, nessuno sa se sia lui, perché noi siamo così certi che sia lui. Ci sono delle indicazioni molto precise, infatti leggendo la richiesta che ha fatto il pubblico ministero nei confronti del giudice delle indagini preliminari di arresto, diciamo, di questo personaggio, prima era soltanto un fermo, poi è diventato un arresto, c'è un'indicazione molto analitica degli elementi probatori a carico suo, a carico di questo Igor, e ci sono le impronte che sono le stesse in entrambi i reati, quello di Berri e il primo, cioè quello di quindi di se non altro l'assassino è lo stesso. Pare che ci sia un'ulteriore notizia degli ultimi giorni, anzi aspetto la conferma, ne parlerò con la Procura della Repubblica, pare proprio che il DNA della famiglia d'origine serba della madre sia compatibile col DNA che è stato trovato in loco, e quindi questo è un elemento importante, anche questo non lo si aveva prima perché non c'erano dei precedenti di DNA raccolti sul conto del, di certo, questo personaggio, perché in passato non si faceva la raccolta del DNA. No, no, questo sì. Comunque, avvocato, noi nel ringraziarla, vediamo un po' come procede questa vicenda. Giorgio Bacchelli, ricordiamo l'avvocato della famiglia di Davide Fabri, la ringraziamo. E vediamo anche domenica quanti poi, se sarà un caso, esatto, questo... sarà un caso limitato oppure sarà un caso... abbastanza più da ingigantire, no? di questa vicenda. Certo, c'è da dire che per ritornare alla questione del terrorismo più ampio, anche questa era una persona segnalata, questa più italiana, segnalata, direi proprio. Anche quello di Londra che srotolava la bandiera dell'ISIS e si faceva riprendere in servizi giornalistici era segnalato e denunciato da una italiana da 2 anni in Gran Bretagna. Oscar, che dobbiamo fare? Cioè, a Notre Dame invece quello che ha colpito Notre Dame ieri è stato fermato, non era segnalato alle forze dell'ordine, però c'è stato un altro attentato sventato, ricordiamo, a Notre Dame, questo pazzo col martello fermato dagli agenti e... Non lo so, mi pare che, ripeto, la sostanza della sicurezza dei dispositivi faccia il paio con l'infondatezza del problema di Surina. Vedo che poi ci sono alcuni ascoltatori, quindi sono io che faccio polemiche sbagliate. Mi dispiace. Su cosa? Le polemiche sbagliate sono sul fatto che vi hanno fatto credere che la questione fosse in carcere e invece non lo è, capite? E poi volete difendere chi fa le polemiche, difendetelo per principio, non mi interessa. Ma la base su cui per giorni si è alimentato il contrasto pubblico è stato: ma come? Lo sdegno era, ma come lo vogliono mandare fuori dal carcere? Sta fuori dal carcere, capite? Tutto lì. Poi fate quello che volete, polemizzate, andate dietro il fumo, caro Alessandro che mi dice che non è così, Alessandro l'ascoltatore. Sì. Però io considero invece, ripeto, ci sono dei tasselli chiari, mettiamoli insieme. La vicenda di Budo, uno potrebbe dire cosa c'entra la vicenda di... No, c'entra perché, come si vede, no? Si tende oramai a farla andare via dall'attenzione perché lo Stato lì non riesce a pescare questo ipotetico grandissimo criminale. La vicenda di San Luca, lo Stato per decenni non riesce a pescare l'ipotetico grande criminale. Poi, e quando lo pesca, tra l'altro, il criminale prima di andare via, che no, il criminale prima di andare via bacia e abbraccia di terzo, fronte terzo alle forze tassello, dell'ordine. Ne abbiamo parlato ieri, eccetera, eccetera. Quello che è avvenuto a Torino in piazza San Carlo, anche quello ci dice: ma che paese siamo sulle procedure di sicurezza e di vigilanza? Siamo i campioni del mondo e per questo che non abbiamo vittime? No, ecco, capite, perché ci sono troppi segnali che ci dovrebbero indurre non a fare polemiche inutili, ma a interrogarci. Io per esempio apprezzo che ieri il sindaco di Torino abbia detto: è evidente che c'è qualcosa che non ha funzionato sotto le tanti che chiedono commissioni di indagini, eccetera eccetera. Però sì, che non è questione di dire dimettiti, buttarla subito in una polemica, esatto, politica, ma un amministratore che fa una riflessione e poi dice: beh, forse dobbiamo assumerci anche delle responsabilità, a dire se abbiamo sbagliato qualcosa per migliorare per evitare per il futuro, di rifare quegli errori. Evitarlo. Perché siccome ci saranno altre partite, un mucchio di concerti. Ma sai cosa? Pinotti dice: quest'estate esercito a disposizione. Il problema di Torino era l'esercito che mancava. No, come no, evidente le procedure. Però Oscar, vedi, tu che sai bene, conosci la politica, se uno in politica dice ammetto sbagliato, viene diventa il dibattito, se ne vada via finché non hai lo scalpo di quella persona, la testa che rotola nel cesto, esatto, non sei contento e quindi si perde poi il focus dal dire ok, ma parliamo delle procedure di cosa fare per migliorare per il futuro. No, questo viene dimenticato, l'importante è cacciare politicamente chi ha il potere. Questo è il motivo poi perché che spiega perché i politici non dicono mai c'è un problema, perché sanno che viene concepito come il primo passo verso la cesta dove rotola la testa. È così. Andiamo un attimo in pubblicità, poi riprendiamo con gli ascoltatori sui temi che volete. 800 24 00 24 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui in diretta, sono le 8:42 minuti in punto. Pippo Baudo, auguri Pippo Baudo. Pippo Baudo, dai, ti vogliamo direttore generale, su, dai Pippo Baudo. Però dai, aspetta, perché è arrivato un altro messaggio su questo, sugli auguri, caro Oscar, dicendo che oggi è anche il compleanno di una delle due di Cuore Denari. Adesso io nella mia ignoranza non so se Deborah Rosciani o Nicoletta Carbone compiono oggi gli anni. e devo chiedere, guarda Lorenzo, sta volgendo lo sguardo speranzoso verso qualcuno ci aiuti, ci soccorra. Ma no, ma noi facciamo una bella cosa, cari ascoltatori, facciamo per... cura tutte e due. No, ma sì, questo è ovvio, sempre, perché ne vogliamo bene entrambi. Però cari ascoltatori, scatenatevi di qui, ecco, avete di tempo di qui fino alla puntata di questa mattina per poi coprire di messaggi, di auguri, eccetera eccetera, chi compie gli anni. Quindi è la questo mia teaser del... certo. No, spero tra l'altro che sia una segnalazione. Ho scoperto, è arrivata una segnalazione subito, il servizio informazioni nostro è più efficace di quello britannico italiano, servizio degli ascoltatori. Vedi? Deborah Rosciani, auguri. Ale, finalmente Deborah. 21 anni Deborah. lo sapevamo io me l'ero segnato da... è tutta una recita, posso dire. Deborah, guarda, ci aveva scritto tutto, tutta una recita. Vabbè. Dai, c'è Angelo da Modena, buongiorno Angelo. No buongiorno. È tanto che provo a fare il numero, ma questa mattina sembra una trasmissione di Magalli. Faccio i complimenti perché la sera leggo, ascolto il 24, sono un affazionato della 24. Complimenti, vabbè. Perché la radio che va sul punto che vuole. Allora veniamo alle casette. Le casette dei terremotati. Sì, perché c'è stato il sorteggio. Il sorteggio, c'è qualcuno che è una vergogna, fare il sorteggio è una vergogna. Ma scusi, l'unico metodo, è il mio punto di vista, perché con tante gente che aspetta la casetta, non si sa, perché tutti hanno bisogno, tutti. Allora, la vergogna Angelo è che dovrebbe esserci le casette per tutti, ma da mesi. Non la vergogna, la vergogna è che sono solo 25. Ma ci vogliono anche i mezzi, se fosse un paese ricco anche domattina ci sono già. È solo che bisogna fare gli appalti, bisogna avere ma non l'ho detto io che entro l'inverno scorso ci sarebbero state le casette per tutti. Allora uno non lo dice, va lì e dice: cari italiani, attendete 8 mesi e poi procederemo ai primi sorteggini per le prime casette. E invece se uno dice in 3 mesi case per tutti e casette per tutti, poi dopo insomma è da lì che nasce, o no Oscar? Credo che tu abbia ragione, sì. C'è un ciclo elettorale delle casette. Il problema è che chi disse in 3 mesi, poi dopo gli venne in mente che doveva votare prima, quindi adesso sospende fino alle elezioni per le casette. Tanto Oscar, ho fatto l'epic fail, è domani il compleanno di te. Ma che c'entra? Gli auguri migliori. Auguri domani, auguri quelli. Oggi, auguri ieri a Deborah. Cioè, sempre. Ragazzi, non ne azzecco una oggi. È domani il compleanno di Deborah Rosciani. Perché si è sparsa questa voce? È una fake news. No, perché devi sapere che siccome ha moltissimi ammiratori e corteggiatori, allora per battere il tempo, quelli che erano rimasti indietro, a cui lei non dà riconoscimenti, il giorno prima fanno. Certo, ecco, questo è il punto. Certo. È così. Fantastico. Allora, auguri per domani, ma anche per oggi a Deborah Rosciani. Federico da Pavia, buongiorno. È stato lì senza salutarmi. Federico, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno Oscar. No, volevo intervenire riguardo i terroristi e i radicalizzati. No, visto che la maggior parte di coloro che sono stati coinvolti negli attentati degli ultimi tempi c'erano tutte le persone conosciute, controllate, già schedate, secondo me a questo punto ci potrebbe essere utile una legge, magari a livello europeo, che permetta di espellere e di allontanare proprio coloro che non hanno ancora commesso un reato, ma che sono potenzialmente pericolosi. Allora, le devo solo ricordare che noi questo strumento, cioè la possibilità amministrativa, quindi che si faccia tutto per polizia e prefetti, per le esfiltrazioni dall'Italia, ce l'abbiamo e lo esercitiamo, anzi è il vero canale attraverso il quale allontaniamo pericolosi individui stimati tali dalle forze dell'ordine, a prescindere da iter processuali, contestazioni eccetera eccetera. Questo canale c'è già, discretamente viene operato, ma proprio perché è operato discretamente non è molto perspicuo il modo in cui viene fatta la selezione. Ecco. Sì, c'è da dire che poi è anche facile dire segnalati, è vero, segnalati dall'intelligence, poi bisogna trovare i reati, perché uno viene segnalato, viene controllato, si dice sempre così. Dopodiché noi non sappiamo neanche quanti attentati vengono sventati, Oscar, e voglio sperare che non tutti vadano, no, vadano, certo, in porto, magari molti, no, di quelli, di sicuro, scopriamo di quelli che erano seguiti e hanno colpito, ma magari ce ne sono molti invece che sono seguiti, sono fermati in tempo e non colpiscono, e noi non lo sappiamo. Lì in quel caso vuol dire che l'intelligence funziona. In ogni caso, certo, un maggiore coordinamento europeo ce lo chiedeva anche, lo chiedeva Franco Roberti, procuratore antiterrorismo. Ah no, da sempre lo chiedono, quelli della direzione nazionale. Esatto. C'è Orsola, giusto, da Vercelli, buongiorno. Buongiorno a tutti e due. Buongiorno. Io chiamo per dire molto brevemente, a proposito del polverone sollevato su Totorina, sì, che i cittadini comuni non hanno il privilegio di poter rimanere in ospedale 22 mesi, qualunque sia la malattia, e che addirittura i malati terminali mi sembra che abbiano diritto all'hospice per un mese. Sa, ma lui è in carcere al 41 bis, quindi che fare? Si può essere curati anche in carcere dignitosamente. Mm. Ecco. Nell'infermeria del carcere, evidentemente al 41 bis, cioè voglio dire in regime di estrema, non può entrare nulla in quella stanza che non sia controllato, forse le infermerie del carcere sono un po' più colabrodo, diciamo, non può essere garantito il 41 bis. Quindi sarebbe una misura di sicurezza? Eh beh sì, è in una stanza, sì, come dire, molto, molto blindata dell'ospedale, non è che è una stanza nella quale uno entra all'ospedale di Parma e si presenta lì domani, io e Oscar Giannino andiamo a trovare Totorina, facciamo un'intervista facciamo un'intervista. Quindi questa è la situazione in cui, ripeto, io capisco che chiunque si pone problemi ormai è sempre più arrampicati sulle pareti, perché non vi è stato dato la giusta informazione iniziale. La giusta informazione iniziale si limita a questo: Rin è sottoposto, continua a essere sottoposto al regime dei 41 bis, che tocca, secondo me giustamente, ma insomma per sentenza, a chi ha le sue gravissime responsabilità penali, e in coerenza con quanto dispone l'ordinamento nelle sue condizioni di salute c'è una soluzione fuori dal carcere. Lui non rientra in carcere, quindi la questione deve star dentro, deve star fuori, sbagliata, in una struttura di un policlinico che è in linea con tutto quello che, certo, dicono le nostre disposizioni, e quindi lui non ha un millimetro di facoltà in più, non è escluso dall'ordinamento, esatto, speciale. Poi vedi l'ascoltatore che dice: ma Milan non è in carcere, è in ospedale a Parma. È da mezz'ora che lo stiamo appunto dicendo che è in ospedale a Parma e non è in carcere. Bastava, secondo me, essere precisi nel dire la cosa e non ci sarebbe stato il 100% di tutta questa polemica. C'è Luigi che ci chiama da Ancona, buongiorno. No, semplicemente per dire che tante discussioni, ma si accetta o non si accetta lo Stato di diritto. Allora, se si accetta lo Stato di diritto, si accetta il fatto che secondo l'articolo 27 qualcuno è considerato colpevole, no, fino al terzo grado, e quindi le varie considerazioni sui vari personaggi che devono essere fermati prima, oppure l'incapacità di intendere di volere di qualcuno che fa il dentista e poi magari fa grandi errori, oppure il caso Rina, o si accetta o non si accetta lo Stato di diritto, semplicemente. Stato di diritto che è rispettato, però in questo caso, nel caso di Totorina, ripeto, quindi non vedo cosa sia violato, cioè tra l'altro, caro Oscar, tutta la polemica nasce dal sottinteso che è violato senza dircelo, invece no. No, sia una polemica un po'. Comunque, Roberto da Monza ci chiama. Grazie, Luigi Nancone, ovviamente. Roberto, sì, da Monza. Buongiorno. Intanto complimenti. Grazie, perché vi ringrazio per essere sempre disponibili. Dunque, la domanda è questa qua. Siamo sempre immersi in questa baraonda delle elezioni. Sono importanti, sì, sono importanti, no, certo che sono importanti, sistema per elezione. E una cosa che mi è venuta in mente, che nessuno mai solleva, è questa: il sistema delle elezioni praticamente è quasi un gioco, tutto sommato, uno dei pochi giochi in cui chi fa le regole sono quelli che giocano, che è un'assurdità, voglio dire. È chiaro. Benvenuto nella politica, però. Ho capito, però è chiaro che chi e allora. Ogni partito ha la sua esigenza ed è chiaro che sono in contrasto, perché le condizioni sono sistematicamente in contrasto. alla fine può uscire solo un pateracchio, o può uscire solo un potere fortissimo che è per tutte le altre regioni. Ma non è possibile studiare un sistema per cui deleghiamo a un'autorità superiore da definire? Quindi, sentite, vedendo lei, le cose... lei sta parafrasando la Repubblica di Platone, il consiglio dei guardiani, i filosofi illuminati. Beh sì, potremmo abolire in effetti questo errore della storia che è il diritto al voto, però capisce, lo dico per paradosso, non per criticare lei, delegare un ente supremo significa un po' fare a pugni con i 200 anni di storia più recente di questo, cosa che è anche piena di errori. Non è che la democrazia rappresentativa sia il migliore sistema che evita un mucchio di guai. I guai sono quelli che ha detto lei. Sì, gli interessi sono portatori, ogni partito è portatore di un interesse. Diciamo, ci sono paesi in cui ci sono sistemi elettorali in cui conta di più la scelta dell'elettore, da noi no. In ogni caso, nel concludere dobbiamo dire, caro Oscar, che Deborah Rociani ci dicono è inondata di messaggi d'auguri, infatti si sta chiedendo ma cosa sta succedendo? Ma è bellissimo, Adele, abbiamo bellissimo. Ha rallegrato la giornata. È un po' più brutto perché domani nessuno si ricorderà ma di non fare è vero, auguri. Domani vedrai la sorpresa che gli riserviamo domani mattina, Deborah, vedrai. Perché era tutto un giochino, no, non era un giochino, ho detto una cazzata. Oggi non è il compleanno di Deborah Rociani, è domani. Vabbè, non c'è però, dubbio. Però c'è voi dubbio. Fate gli auguri oggi, domani. Oggi, e dopo domani, il migliore sarà messo alla cerimonia di un bacio qua in redazione di Deborah Rociani. Sì, castissimo, però insomma, una stretta di mano, dai. Una stretta di mano, un bacio a mano, va bene. Facciamo mano, così. Facciamo così. Dai, ci troviamo domani con Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Peter Bescapè in regia. A domani. E per chi non avesse capito, auguri a Deborah Rociani. Esatto, domani e oggi anche.